Tu per me sei troppo bella, un angelo sceso dal cielo, musica divina, fiato del mio stesso fiato, arcobaleno della mia vita. Tu per me sei un dolce sogno che diventa realtà, capriole d'amore, solo amore, per te e per me. Tu per me sei la regina del mio cuore, che gioca ridendo nella giostra della vita, regalando dolci pensieri.